parecchie, due canali diversi. Però quali canali? Non c'è, al 23 stanno entrando, per esempio, Gio Maria, Coso, stanno più entrando, come si chiama? Tore, manco i nomi mi ricordo adesso. K, lo sai cos'è? Perché l'ho messa una seconda, perché molte volte si guardano la TV, io siccome l'antenna ce l'ho rotta sul tetto e non funziona tanto bene, allora gli attacco l'antenna dell'apparecchio. Eia. Vabbè, adesso vediamo se su internet riesco a trovare qualcosa, perché almeno si recupera questo. Da uno schifo di boomerang facciamo almeno un'antenna veicolare. Tutto sta a trovare, eppure io qualcosa l'ho visto. Cioè la stessa vite, due filettature, due passi diversi. Dopo guardo. Scusa, stavo sentendo a Sara un attimino. Marco! Vai Antu. Stavo sentendo la mia compagna, cosa stava dicendo. Sì, sto cercando una soluzione, vabbè, ordinando qualche vite. A costo di rifilettarla, ho anche una barretta del giusto diametro di ferro da filettare con la filiera, e così li faccio da un lato un passo e dall'altro l'altro passo. E avvirai, chi è che chiama? Faccio una cuffia nei buscia. Si è fatto male Costantino, mi sono dimenticato di tiro. Cosa è successo? Un amico nostro è tutto sciancato. Incidente? Si è parato come una bera, si è parato di notte. Kappa. Vabbè, dai, che questo già va bene, là. Le antenne. A voi che vanno bene. Anto, mi stavi dicendo della filiera, se ce l'avevo, no, ma io già la rubo da mio zio, dagli attrezzi di mio zio. Se sciuga, già sei bogulladru. No, gliela chiedo in prestito già. Ci mancherebbe, tanto è una fesseria, hai visto com'è fatta, no? Sì, no, già sto scherzando, stavo. Poi se la dimentica, io mi dimentico di restituirgliela anche, me la tengo io. No, se mi sente Luca, mi senti? Passo. Luca, lo copia Antonio. Passo. Già lo so che mi senti, dai. Già lo sto sentendo. Sei vicino lo stesso. C'è che col capo. E quindi, vabbè, Luca non può parlare però, se non brucia tutto. Cioè, come mai non si può aggiustare l'antenna? Cosa c'era? Manda un messaggio al limite. Avevo sentito che avevi detto che era tipo marcita o una cosa del genere. No, già si può riparare. Bisogna aggiustarla. E dipende quanti anni ha, perché sai, bene o male le intemperie, cioè, o si fa manutenzione molto molto bene, ogni, che ne so, 10 anni, oppure è che non ha rotto le balle, cioè, se poi non c'è il terrazzo, c'è il tetto, è una seccatura, mi fa le manutenzioni alle antenne, tu. Più di 10 anni c'era, capito. E qua vabbè, qua è comodo perché c'è il terrazzo, puoi fare le capriole, ti puoi mettere la sdraio, mi il messaggio. Kappa. Sì, perché se tu hai le misure esatte del pezzo originale si può rifare al tornio, poi con la persona anche preparata c'ha le mani d'oro, lo sai, no? E si conferma. Sì, però bisogna avere misure precise, magari dal pezzo nuovo, perché se c'hai già il pezzo vecchio, magari tutto usurato, mangiato dalla ruggine, magari qualcosa avviene di simile, ma se è perfetto è meglio ancora, se c'è proprio le misure giuste. Vabbè. C'era Roberto, poco fa si è sentato, forse è andato a cena. D'altronde mio, sono le... Che ore sono? Vai. 9:15, l'ora del film. Dai signori, io vi saluto. Ciao Antonio, Luca, Roberto, sei rientrato, sei all'ascolto, Natalino, idem, compattate, Frank, tutti gli ascoltoni faccio prima e basta. Dai, buona serata a tutti. Abbiamo già avuto la storma, Luca, per un momento che era uscito. Sì, Sì, la Storm come antenna provvisoria va benissimo, ce l'ho anch'io, però ho perso le staffe, non io, non ho perso, perso l'antenna, mi pare che c'ho una staffa sì e una no, e non lo posso variare perché io le voglio identiche, cioè lo voglio come quella di fabbrica, non quelle adattate che trovo anche, le trovo da Fusaro, ma son, non sono uguali, capito? Ce le do io, Marco, ce le do io. Ma fatto un cazzo, le metti, metti quella là, va bene così, zende. Ma io sono paranoico, cioè se io ho il pezzo originale e ne perdo uno dei due, non è, o è uguale o niente, o si butta tutto. No, parampazzila, bella a me. No, parampazzila, diamo a Luca, almeno, almeno modula, in questi giorni può modulare la casa, no? Sì, bella a me, me la presti. Prestare no, te la do, te la usi, poi la ricicli, la presti a chi ne ha bisogno, purché trovi due staffettine a costo di metterci due, come si chiamano quel cacchio di, le fascette dai, grosse un po', che prendano il palo e il palettino della Storm, il metallo della Storm. Ce li ho le staffe. Ce li hai, ma vanno bene. E come facciamo? Facciamo tutte cose. Vogliamo un appuntamento, ma che me la prendo. E come ti viene bene? Vabbè, al telefono ci mettiamo d'accordo. Aspetta che controllo, eh. Non voglio fare figure di cacca, aspetta. C'ho anche la boomerang, però... Olù, questa boomerang è ambigua. Cioè è lunga elettricamente. Elettricamente è troppo lunga. Gli devi togliere lo stub di taratura e mettergli del nastro isolante per tappare dove inserisci lo stub, no? Quel coso di metallo. E allora risuona in 27, accettabili le stazionali, accettabili, no, non assai. Sì, vabbè, scrivimi, sono Lucio Baracchi. Adesso guardo se dovrebbe essere nel cantuccio lì. Allora si piazza quella, metto un paletto e va. Meglio di nulla. Ma rialza un attimino se ce la buoni sopra o... E via. Cioè, per il momento esce. Meglio di niente, ci metto un palo da più di un metro. Un paletto e va. Chi è? Avanti, chi è questa, questa modulazione da oltretomba? Capo, un po' male ti sento, Tanto c'è il TMR. Boh, non capisco qua, qua fenomeni paranormali, non si capisce cosa stia succedendo. Allora, la Storm non c'è. In compenso ho trovato un'altra boomerang quasi sigillata. Cioè due boomerang che mi sono trovato. Adesso devo vedere cosa c'è dentro. Hola, chico. Chi c'è in PMR? C'ho il ricevitore, c'ho lui. Sì, parla lì, tu parla lì, aspetta che blocco il segnale, parla, che blocco lo scanner. Ti senti? No, prova, non mi sento, no, prova, aspetta. Parla. Ok, mi sento, dai. Ehi, parla lì, allora, ti spiego. La boomerang mia è completa, la mini boomerang, non è rotta, è funzionante. Se lo stub dovesse essere troppo lungo, o glielo tagli o glielo togli. E mi ricordo che togliendolo era risonante sui canali normali, capito? Però dipende dall'altezza dell'installazione. Non solo, ma ho trovato anche la staffa originale della boomerang. La staffa originale, che da una parte è un po' più tonda, no? E dall'altra c'ha l'attacco un po' leggermente quadrato per attaccarlo tipo ringhiera, no? E non solo, credo di poter accontentare anche Natalino, perché in una busta chiusa ho trovato dei pezzi sparsi di vecchie boomerang, c'è proprio l'antenna che voleva lui, la frusta nera, no? Con lo stilo, con lo stub di taratura in punta e l'attacco a galletto, è proprio quello che voleva lui. E quindi due piccioni con una fava, dai. Quindi questa la metto da parte allora, la boomerang. Ok? Luca, ma dimmi. Sì, Antonio, Luca mi sta rispondendo in PMR. Io c'ho il ricevitore per ora solo. perché sennò qua brucia tutto, capito? Scappa, basso pure io. Cioè io parlo qua e lui risponde là. Sennò mi tocca, ho anche l'antenino dentro, sennò mi tocca aprire la finestra, far passare il cavo, mettere la prolunga, il barilotto, pigliare il portatile, è tutto un casino lui qua. No, no, ma infatti è pericoloso, anche se riesci a uscire un po', rischi di bruciare tutto lì. Quindi non trasmettere. Sali con Marina, se c'è la macchina disponibile, per non venire in tram, oppure se sono in giro io te la avvicino io. E poi se la vedi questa mini boomerang, è nuova, io l'avevo messa in terrazzina, l'ho provata, però troppo attaccata al muro, stazionaria, cioè non mi va bene a me, questa va messa in alto per andare bene. Ed è una mini boomerang della Lem, si chiama mini boomerang. Meglio che uscire senza col cavo, meglio questa antennina. Poi per la taratura però devi vedere tu, sì, la staffa era finita nell'altra busta, è nuova, c'è ancora la zincatura color bolla di sapone, è presente, no? Quel colore un po' iridescente. Anto, ma ci sei in PMR? Perché qua non arriva l'altro segnale. Già c'ero già, perché? Dov'è il problema? No, che non ti sento qua in PMR. Ma sai perché? Sono con l'antenna dentro casa, del ricevitore. L'antennino del ricevitore. Non c'è il problema, ma non ti sento là. Allora, buona. Ma te l'ho detto, c'ho tutti i cavi fuori, mi tocca aprire la finestra, passare il cavo, mettere il barilotto, la prolunga, pigliare il portatile, mi ribassa la gana. Ma ti conveniva dare la forma, si piantava quella, non doveva tarare niente. Ma vorrei sapere dove è finita la storma, sai, perché io dietro la camera mia c'ho un angolino dove c'ho tutte i mazzi di antenne, VHF, UHF, CB, di tutto, ammazzi, soprattutto quelle veicolari. Però questa storm non è al suo posto, è sparita. A meno che non l'abbia prestata e me ne sono dimenticato. Boh. Ah, quello lo sai tu. E chi se ne ricorda? Con la memoria che mi canta. Una cosa me lamento da voi. No, io. Io devo avere un principio d'Alzheimer. Addirittura. No, a parte gli scherzi, io sono smemorato, cioè. Se a volte se devo ancora. Sì, poi ci sentiamo e poi la roba. No, non torna mai. Cappa. Vabbè, comunque la mini boomerang già si può usare. Va bene, la bomboletta! Niente. Cioè senza antenna 9.30, vabbè sono 10 watt, ma 10 watt sono pochi, non sono niente 10 watt, se voi li metto a 4 mi aspetta, vabbè, ma fanculo questi apparati elettronici, allora, forse così sono 4, forse, a occhiometro, prova un po' Anto, parla assieme a me, allo basso, io non ti intengo. E pensare che questa è un'antenna di Chichia, questa antenna mia. E lui a me non mi sente. No. No. Questo chi è? Questo è Luca. Allora, Anto, parla. Guarda, sono in ricezione qua, vai. Ma questo chi è? Luca, non sei tu. Oh, niente, buio totale qua, buio totale. Arriva Antonio. No, qua tolgo lo squelce, guarda. Io non ti arrivo, no, non ci arrivi Antonio. Io mi sento, mi sta traslando, dai. Non arrivi. Allora, è nel QRM. Lo sento ma non radio zero. No, non ce n'è smitter. Non ce n'è smitter in questo Uniden, questo scanner. Sì, più che ottima. Buona. Ti senti tu, mi? Vabbè, no, che poi fa effetto Larsen. Sì, che tu va. Però, sì, dai. Che un po' disturbato, arrivo però, dai. Vabbè, tu ci sei con l'antennino di fuori. Sì, sono con l'antennino da 50 centimetri di telescopico, mi. Quando 19. Che è? Certo, che vedete che faccio oggi. Anche a me. Beh, vabbè, comunque se ha 4 watt uguale, tanto vale metterne 10, no? Che poi sarebbero 12, ma c'è il filtro che... Chi cazzo è, no? Oh, parla! Sono qua, mi ero spostato. Signori, vi devo lasciare. Comunque, Luca, adesso metto in busta e quando si... Già sono sul 10, sì. No, perché c'ho i tastini sotto il dito. Sta fra tutto e quando si può ci mettiamo d'accordo via telefono, ok? Ciao Antonio, ciao Coso, chiudo QRT. Ciao Marco, buonanotte. Scusate che mi sto ubriacando, cioè sono in mezzo a pezzi di antenna, adesso non sto capendo più qual è dell'una e qual è dell'altra. Viti, vittine, mi sto ubriacando, dai, ci sentiamo in migliore occasione, ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ma. 1000 euro, un piede nel culo.